Vax, basta, non lo troviamo più sto fottuto posto, fratello. Cioè, continuiamo a girare come gli sfigati, basta. Ascolta, calmo, cazzo, adesso vedi che arriviamo al posto, lo troviamo, facciamo no, il nostro no, showcase, cazzo, fratello, il nostro mini-disc. Fratello, io vedo solo dei fottuti filari di pioppi qua, nebbia, non c'è un cazzo. Siamo a Pampuro, io non lo so. Dove cazzo siamo? Che cazzo facciamo, fratello? Non lo so, chiediamo a qualcuno, fermo la fottuta auto e chiediamo. Ma chi cazzo chiede? Guarda, fratello, ci sono due fratelli sulla strada, adesso mi fermo e chiedo a loro. Ok, allora chiediamo ai locals, fratello. Okay. Chiediamo ai locals. Scusa, fratello, vieni qua. Oh, scusa, un'informazione. Oh, Nicola, c'è sti qua, ti senti che mi parla? È proprio di monaco. Allora, sì, scusate, stiamo cercando questo cazzo di teorema Dancing Hall. Dove cazzo è? Sorgà, lì vicino a Casa Blanca, la pizzeria. La pizzeria c'è un deco. Oh, ti ho visto con via vestisti qua. Ma il teorema perché? Sì. Ah, dai, lecca il posto dove va sempre, il Comens. Guarda. Quei piedi troioni. Tu ti ricordi da dove è? Per dirgli. Allora, aspetta un attimo. Dunque, al ponte te vai a destra. Sì. E tiri dritto per un par di chilometri e ti dovresti catare il Sorgà. E passi la Cesa e lì vicino te vedi che la pizzeria e tacca il teorema. E tu capio? Bella, grazie ragazzi, bella, ci vediamo. Oh cazzo, non ho capito un cazzo. Vabbè, vaffanculo, andiamo.